Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'ultimo giorno del mio lavoro estivo, lui mi diede un casco da motociclista. Mi disse che lo aveva visto cadere da una moto in corsa, lo aveva raccolto, ma il motociclista era già lontano. Era un casco azzurro, con lettere adesive bianche, era scritto il nome Alain. Mi chiamo Renato, vivo a Torino, sono sposato, ho una figlia e faccio il dirigente d'azienda. Il miraggio di un viaggio. Equazioni non ne ho. Siamo solo numeri, non ci sto. E spero che tu capirai che i conti non tornano mai e che i risultati non hanno a che fare con noi. Le 16:10 minuti in punto, oggi, se non avete capito, è mercoledì e come facciamo un mercoledì al mese, suoniamo dal vivo. Oggi con noi c'è Nicolò Carnesi, buongiorno Nicolò. Buongiorno. Ben arrivato. Grazie. Ovviamente. Oggi noi continuiamo a raccontare una storia, che è la storia di Renato, che parla di un casco di uno sconosciuto che gli salva la vita. Ma contestualmente abbiamo appunto, forse leggevo prima, il musicista, passami il termine Nicolò, indie rock o indie pop. Mamma mia. Indie rock più cool del momento. Prima Nicolò diceva, visto che tutti ne parlano bene, non vorrei che tra un po' la fortuna giri o cambi il cerchio. No, più che altro quando la critica, diciamo, e gli addetti ai lavori ti, tra virgolette, osannano, magari poi il pubblico ti prende, non lo prende dalla stessa parte. L'ultimo disco di Nicolò, Carnesi, che è il secondo, giusto Nicolò? Il secondo, sì. Si chiama Ho una galassia nell'armadio. Oggi ne sentiamo tre pezzi, tutti da questo disco o qualcuno? Tutti da questo disco, questo era Numeri, un accenno fino al primo ritornello, e il prossimo sarà, insomma, sorpresa. Ok, a sorpresa. Prima Nicolò diceva, Carlo, doveva far durare canzoni quanto? 2 minuti e mezzo. Le mie canzoni durano tutte 4 minuti. E lo mettevo insieme a una cosa che mi dicevi prima, che era che in qualche modo a un certo punto la musica, tu hai detto, mi ha fatto uscire dalla mia sfigataggine, dalla mia sfigatezza. Insomma, a proposito di caschi e motorini, ti raccontavo questo aneddoto del regalo dei 14 anni, no? Che scelsi fra il motorino e la batteria. Tutti i miei coetanei sceglievano ovviamente il motorino, così potevano andare ad abbordare le ragazze, potevano andare nelle feste. Ad abbordare, nel senso che sembra che ti vadano addosso le ragazze, 14 minuti, no, facciamo un abbordo di quella ragazza, boom! Era però figo, cioè, ovvio, motorino, chiamalo, mentre io scelsi ovviamente la batteria, e in quel caso lì no, diminuì molto la mia figaggia. Ah, certo, in quel più caso sfigato. Ok, diventassi più sfigato. Anche perché i miei amici dicevano, che cavolo fai? Cioè, potevi venire con noi in motorino e invece a girovagare, invece stai a casa come un nerd a suonare la batteria. Poi invece però lentamente non la musica, che le cose siano cambiate, però ora con la musica bene o male ho trovato la mia dimensione, che non dico di essere fico, anzi no, però almeno mi diverto e faccio divertire un po' di persone. All'aspetto di un Bob Dylan un po' spettinato, Nicolò Carnesi. Le cuffie e il radio sono una maledizione per i miei capelli. Potete vederlo dal nostro profilo Facebook, Voi siete qui Radio 24, abbiamo postato una foto mentre Nicolò stava scaldando le dita e la chitarra. Nicolò, tu sei, e non si sente, non si direbbe dall'accento, però sei siciliano? Sono siciliano, no, si sente, si sente. No, perché mia madre mi disse quando l'ultima volta sono venuto qua a Milano. Aspetta un secondo, sembra il migrante che sale con le valigie. Tu adesso tu vivi a Milano. Io vivo adesso a Milano, okay, però torno spesso in Sicilia. L'ultima volta mi disse: guai a te se perdi l'accento e arrivi la prossima volta e cominci a parlare. Uè, ma allora, che è un classico di tutti quelli che vivono a Milano, che tornano a casa e dicono: hai detto almeno quello, ma mantienilo, anche perché sto cominciando ad avere atteggiamenti milanesi. Ho paura di perdere il treno, devo arrivare lì proprio puntuale. Penso, ah, devo fare questo, devo fare quest'altro. Tutto che sono più come atteggiamenti di una persona normale che come di un milanese, no? E insomma, io sono sempre stato un po' lento a fare le cose. Tu vieni da un paese, io mi sono molto incuriosito prima, mi dicevi, vieni da un paese che si chiama Villafrati, sì, giusto? Che è tutto attaccato. Tutto attaccato. Ed è a 20 minuti da Palermo. Sì. Leggevo adesso che a Villa Frati c'è una questione annosa sull'acqua pubblica, ma è una cosa inquietante. Dal 2007 vige un'ordinanza sindacale secondo cui l'acqua non si può bere. Quello sì. Io sono poco informato sugli sviluppi attuali, però io non ho mai bevuto l'acqua del rubinetto di casa mia, né fatto mai, per dire, la pasta con quell'acqua lì, né pulito l'insalata, insomma. Cioè, non si minerale. Può utilizzare, non è potabile. Quello è poco ma sicuro. Per il resto invece è un bel posto Villa Frati. È un paesino in mezzo alle collinette, cioè va bene, credo che la Prologo di Villa Frati non chiamerà mai Nicolò. Mi vogliono bene. Hai suonato ovviamente tante volte, sì. No, è bello, è un po' esagerato, non è che offre a livello estetico, vabbè, però è bello per chi ci vive, c'è bella gente, si sta bene nella pace dei sensi. E non ci sono treni da prendere. Hai Palermo, a due passi c'è pure il bosco, c'hai la campagna, no, si sta benissimo, io scrivo tutte le mie canzoni praticamente lì. Nonostante tu sia trasferito adesso in via Washington, sì. Giusto come faccio proprio i fatti tuoi, in via Washington. Prendiamo pure l'indirizzo a Milano, direttamente sì. da Villa Frati. 349-238-6666. Oggi noi chiaramente facciamo una chiacchierata e ascoltiamo la musica di Nicolò, ma raccontiamo anche la storia di Renato. Tu, Nicolò, lo dicevamo prima, tu quindi un motorino e un casco, visto che oggi parliamo di un casco che in qualche modo salva la vita dell'autore di questa storia, un casco di uno sconosciuto, di una persona che lui non sa chi è. Sappiamo solo il nome perché è scritto sul casco. Tu quindi non hai proprio esperienze di motorino. Io non ho mai portato un motorino, mai, ragazzi, è una confessione vergognosa, ma mai portato un motorino. Però ho una paura, credo che cadrei tipo subito. Però sai suonare tutti gli strumenti in compenso. Ci vuole qualcosa che bilanci. Cioè, ma tipo il flauto traverso tu lo sai suonare? No, so suonare bene o male gli strumenti, quelli proprio, diciamo, da basici. Da accompagnamento rock, ok, quindi pianoforte, batteria, pianoforte, tastiere, synth, chitarra elettrica, basso, ste cose qua. Tromba? No, strumenti a fiato no. Quelli no. Sono complicati. Quelli no. 349-238-6666. Siamo in diretta con Nicolò Carnesi, che tra poco ci suonerà un altro pezzo, ma prima sentiamo la storia di Renato. Nell'estate del 1980 compii 16 anni. Volevo acquistare la Vespa PX e allora mio padre mi mandò a lavorare presso un suo amico, piccolo impresario edile. Preparavo l'impasto per intonacare e lo portavo dentro larghi secchielli di metallo ai muratori che rifinivano le pareti di una villetta in una zona premontana. Ogni giorno raggiungevo il cantiere insieme con Pino, l'amico di papà, a bordo della sua Mercedes 240D verde pisello. Poi, per tutto il giorno, lui dirigeva il cantiere e io facevo l'ultimo in grado. Nel riportarmi a casa, l'ultimo giorno del mio lavoro estivo, lui mi diede un casco da motociclista. A 16 anni facevo lo scientifico durante quel periodo. Ho fatto quel lavoro estivo perché volevo la Vespa e mio papà mi ha detto che dovevo almeno guadagnarmene un pezzo. È stata una bella esperienza e non avevo progetti. Infatti la cosa che mi ha colpito ripensando a quel momento è che era un Renato che poteva ancora essere qualsiasi cosa, no? Poi 2 anni dopo ho preso la mia strada e ho sviluppato quella. Mi disse che lo aveva visto cadere da una moto in corsa, lo aveva raccolto, ma il motociclista era già lontano. Era un casco azzurro, in effetti si vedevano i graffi della caduta sull'asfalto. Con lettere adesive bianche era scritto il nome Alain. Si trattava evidentemente di un motociclista francese. Quelli erano gli anni del reflusso, andavamo firmati Lacoste, Levis e College. Quel casco, senza marchie, di colore anni 70, con la Vespa che stavo comprando non ci pigliava proprio. Finì subito in un angolo. 2 anni dopo, diciottenne e fresco di maturità, salutavo la mia ragazza che andava in Liguria con la sua famiglia per le vacanze estive. La mia famiglia si sarebbe a breve spostata nella casa di vacanze in montagna. Probabilmente questo era troppo anche per un insulso prodotto del riflusso come me. E così, con un amico coetaneo, organizzammo la nostra vacanza alternativa. Attraversare l'Italia in Vespa, meta la Sicilia. Visto il tenore dell'impresa, mai le nostre Vespe si erano spinte oltre Albissola, Nolio, Varigotti, e su ingiunzione dei miei più che perplessi genitori, portai con me il casco azzurro di Alain. Primo giorno, Torino-Roma, notte in tenda in camping. Secondo giorno, Roma-Scalea, notte in spiaggia. Terzo giorno, mi fermai contro un camion. Io credo che quel casco ha messo in luce una cosa che poi ha permeato un po' il mio progetto di vita, cioè il fatto di mettere insieme tante persone in modo un po' casuale, no? C'è Pino, no? Questo amico di mio papà, c'è questo motociclista francese che non ho mai conosciuto ma mi ha lasciato il suo casco. Poi io nella mia vita ho viaggiato molto per lavoro, ho sempre cercato di stare in posti nuovi, conoscere persone nuove, e credo che magari appunto questo casco mi abbia insegnato che c'è del positivo anche nelle persone che non conosciamo. Il camion procedeva lentamente e io decisi di sorpassarlo. Proprio in quel momento svoltò a sinistra. Io gli finii contro. Il casco di Alain si stampò su un longherone del cassone di metallo e mi salvò la vita. Trascorsi 2 giorni in osservazione in una stanza dell'ospedale di Vibo Valentia. Il mio amico, nel frattempo, mi fece rimettere la Vespa in condizione di viaggiare. Poi rientrammo, io frastornato, lui perplesso sulla qualità e sulla rivendibilità della nostra avventura. Ci fu ancora tempo per una settimana in montagna con i miei, poi gli studi, il lavoro, mia moglie e una bellissima figlia. E tutto questo grazie al casco di Alain. Complicati come siamo, ci disintegriamo, non socializziamo più. Ho una galassia nell'armadio e ci nascondiamo per non comparire più. Siamo figli del 2000, fiumi alla deriva, non ci sorprendiamo più. Siamo stelle supernova, pronti all'esplosione, non ci troveranno più. Nicolò Carnesi dal vivo, sono le 16.23, questa è Radio 24, sempre, anche se suoniamo musica dal vivo, e continuiamo a raccontare storie. Nicolò, scusa, mi è arrivato un messaggio che mi fa veramente molto molto ridere, perché tu prima hai usato un'espressione che è tipicamente siciliana per parlare del motorino, hai detto io non ho mai portato un motorino. Che in realtà è italiano, sì, cioè sì, non ho mai capito. Guidato un motorino. Uno ha scritto, ma dove non ha portato il motorino? Sì. Vabbè, che immagino sia una battuta, no? Non ho mai portato un motorino. O forse è un milanese. È il milanese che stai diventando, probabilmente. Non ho capito probabilmente. Però quello che Nicolò, è il milanese non che non ho mai guidato, diciamo. Va bene, ma è la maniera corretta per diciamo dire, portato, ma nemmeno non l'ho mai portato. Diciamo che tutti gli altri avevano capito comunque. Sì. Sono le 16:24 minuti, tra poco suoniamo un altro pezzo di Nicolò, cioè lo suona lui, perché altrimenti io non saprei assolutamente cosa fare. Prima ti chiedevo, tu conosci il tuo pubblico, e Nicola giustamente mi ha detto, non personalmente, però hai un'idea di che pubblico sia il tuo? Perché tu hai cominciato a suonare, diciamo, ad uscire in pubblico non da tantissimo tempo, da quanto? Il primo disco quando l'hai fatto? Il primo disco è uscito nel 2012, quindi due anni fa. Quindi sì, diciamo che il pubblico si è allargato un po' da quel momento lì. Ok. E ho cominciato un po' a vederlo crescere, perché ho fatto davvero tantissimi concerti. Ogni volta tornavo in una città, magari anche la seconda, la terza volta, e vedevo che cresceva. Però la cosa bella è che in prima fila nelle c'era sempre c'era gli sempre stessi quelli che erano là, c'erano, quindi non mi hanno abbandonato, che sono quelli che quando farai il terzo disco cominceranno a dire ragazzi, però Carnesi, esatto, il primo disco bello. Sì, questi sì, invece il terzo ormai si è perso, produzioni giganti. Senti, dicevi che è soprattutto femminile il tuo pubblico, ma è in percentuale, però no, ci sono anche gli uomini, ma certo, vedo gli uomini, un po' più ragazzi, hai questa sensazione, sì. 349-238-6666. Nicolò, siccome leggevo che tu disegni fumetti anche, o disegnavi quantomeno fumetti, disegnavo, ora mi piacerebbe ritornare un po' a disegnare delle cose. Quando tu, che so io, ai tuoi genitori, no, che dici guarda vado a lavorare eccetera eccetera, ti capita che ti chiedono sì va bene, ma esattamente che lavoro fai? No, i miei sono informatissimi. Ah sì? Sì, vengono ai concerti, sanno tutte le dinamiche dei social, sanno veramente tutto e mi aiutano. Questa cosa pezzo. Sono super fortunato, poi sono giovani. Come si chiamano loro? Giusy e Tommaso, questo pezzo sicuramente lo conosceranno, e possiamo dire che è un po' la tua hit al momento, quello che stai per suonarci. Sì, dai, è okay. Quello che gira di più. La rotazione, Nicolò Carnesi, live, a voi siete qui. E torneremo forte, chissà per quanto tempo, ma ci resta quel punto lontano da guardare per non perderci del tutto. riscoprire tutto, per non dimenticare tutto quello che ci ha portato salvi fino a qui. Nicolò Carnesi, il suo ultimo disco è Una galassia nell'armadio. Nicolò, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Troverete ovviamente questo live dal vivo qui a Voi Siete Qui, anche nel video che sta girando Marco Ligabue, che troverete sui nostri social. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Renato. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Miriam, sono nata a Roma dove vivo e la storia di domani, lo stalker, è la mia. Questa è la mia storia e io sono qui.